Sono alle zattere, il volume è 8, decibel sono 70. Meno 0. Con il decibel a 80. Un attacco a meno 0. Sono le 5 del pomeriggio, no, quasi le 6 del pomeriggio ed è una giornata con una nebbia molto fitta. Campo San Trovaso. Come stai? Bene. Sul prato.